giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incendio prima dell'alba a Lauco, quasi distrutto un casolare e in salvo gli abitanti, vigili del fuoco ancora all'opera. Il giallo di Padova, la morte di un dirigente di banca di Venzone, era stato trovato agonizzante poco lontano da una rotonda, ferite compatibili con un investimento o un'aggressione. Verso la nuova legge regionale sull'immigrazione, in commissione consiliare le prime audizioni. Occupazione, dati positivi dall'osservatorio regionale, cresce il numero dei lavoratori e delle assunzioni a tempo indeterminato. Piano di ripresa e resilienza, accordo tra Regione e ANCI sulla formazione dei funzionari per catturare i fondi attraverso i bandi. Udine ha approvato il progetto di fattibilità per la nuova scuola nell'area dell'ex caserma Osoppo, costerà 5 milioni. A Gemona si inaugura la nuova sede della Casa per l'Europa. Trieste, il tallero dell'imperatrice, folla festosa all'inaugurazione del monumento a Maria Teresa. Cultura slovena, premiati a Lubiana, lo scrittore triestino Dušan Jelinčić e il pianista goriziano Aleksandar Gagijev. Musica a Colugna, stasera il concerto di Grigori Sokolov. Pallanuoto, Trieste cerca il passaporto per la semifinale di Eurocup. Alla Bianchi sfida gli ungheresi già battuti 2 settimane fa. 7:19 minuti, 30 secondi di mercoledì 8 febbraio. Buona giornata da Giampaolo Mauro e Lara Zani. Apriamo come di consueto con uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, fa freddo, soprattutto in montagna. Vediamo le temperature registrate alle 6. A Trieste ci sono 5 decimi di grado positivi, il vento di Bora soffia a 50 km orari di media, con raffiche che hanno sfiorato gli 80 orari. A Udine e a Gorizia meno 1, a Pordenone 4 gradi sotto zero. Nell'area montana Tolmezzo meno 7 e 5 decimi, a Tarvisio meno 13 e 5 decimi, a Sappada meno 12 e mezzo, a Forni di Sopra meno 7, sul Piancavallo meno 11, meno 11 anche sul Monte Zoncolan, sul Lussari 12 gradi e mezzo sotto zero, sulla costa Lignano 3 gradi a grado 1. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi: cielo in genere sereno, soffierà bora moderata in pianura, con qualche raffica sostenuta. Bora sostenuta e fredda sulla costa e sulle zone orientali, anche forte a Trieste e sul Carso. Nel Tarvisiano non è esclusa la possibilità di qualche nube bassa. Cominciamo con la cronaca. Lauco, un casolare è andato quasi completamente distrutto in seguito a un incendio divampato nelle prime ore di quest'oggi. Un incendio che ha interessato in particolare il primo piano di un edificio, fortunatamente senza conseguenze per le persone che vi risiedono. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 di questa mattina e sono ancora sul posto con squadre provenienti da Tolmezzo, Gemona, Udine e con i volontari del distaccamento di Cercivento. Non è stato ancora risolto il mistero della morte a Padova di un dirigente di banca friulano, Fabrizio Copetti, 55 anni, originario di Venzone. L'uomo era stato trovato in fin di vita nei pressi di una rotonda con il volto tumefatto. È spirato poco dopo essere stato soccorso e ora si indaga sulla causa di quelle ferite. Vengono vagliate attentamente, fotogramma per fotogramma, i filmati delle telecamere posizionate a qualche centinaio di metri dal luogo del ritrovamento del bancario friulano. La speranza della polizia di Padova è di riuscire a capire cosa sia successo alle 19 di lunedì sulla rotonda che porta in direzione dello stadio Euganeo. Fabrizio Copetti, 55enne di Venzone in Friuli ma da 16 anni residente a Padova, è stato ritrovato agonizzante a pochi metri dal passaggio pedonale in via Avanzo. Soccorso subito da alcuni automobilisti che avevano notato il corpo steso a terra, all'arrivo dei sanitari le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Trasportato all'ospedale cittadino e rianimato, è morto 2 ore dopo. A insospettire gli agenti della polizia locale, le profonde ferite sulla testa e il volto che potrebbero essere state provocate dall'investimento di un'auto pirata o da un'aggressione. L'elemento che lascia aperte diverse ipotesi è anche il fatto che sul luogo del ritrovamento non siano stati rinvenuti frammenti di una possibile auto investitrice o segni di frenata. L'uomo era solito attraversare questa zona per andare al lavoro nella filiale della banca dove lavorava o anche la sera al ritorno a casa. Funzionario dell'Unicredit in zona Stanga a Padova, Copetti viveva in città dal 2007. Nato a Gemona del Friuli, era stato direttore delle filiali ad Artegna e a Udine. Prima ancora aveva lavorato all'Intesa San Paolo di Gorizia a San Donà di Piave. A Padova viveva assieme al compagno nel quartiere Arcella, dove chi lo conosceva lo descrive oggi come vicino di casa sempre disponibile e gentile. Il servizio era di Ivana Godnik e in moto la grande macchina degli aiuti internazionali nei confronti delle popolazioni colpite dal devastante sisma in Turchia e Siria, mentre a livello locale si muove la solidarietà di settori e categorie. Tra i più attivi nelle ultime ore i lavoratori portuali che a Trieste hanno espresso la loro vicinanza ai marinai e ai camionisti di quei paesi che transitano attraverso lo scalo. Dal porto di Trieste sono infatti attive linee dirette di traghetti Ro-Ro che nell'anno appena trascorso hanno visto la movimentazione di oltre 370.000 mezzi pesanti. Il Comitato dei Lavoratori Portuali ha invitato tutti i colleghi degli scali di Trieste e Monfalcone a partecipare a iniziative di solidarietà concreta per i popoli turco e siriano. Ha mosso i primi passi in Commissione regionale la nuova legge sull'immigrazione. Sono stati ascoltati tra gli altri la Presidente della Commissione Pari Opportunità e il Garante per i diritti delle persone soggette a discriminazione. Verso una nuova legge sull'immigrazione, una legge quadro che sostituisca la precedente. Davanti alla Commissione è stata succintamente illustrata dall'assessore Roberti e poi sono intervenuti diversi soggetti convocati per essere ascoltati. Un primissimo approccio che però ha già mostrato quali saranno i punti di contrasto fra maggioranza e opposizioni. Nei ristretti spazi di manovra concessi dalla competenza dello Stato, ha affermato l'assessore, abbiamo fissato principi e punti cardine su cui lavorare. La legge precedente, ha aggiunto, puntava l'attenzione sui richiedenti asilo. Questa allarga lo spettro anche alle comunità straniere. Fra i punti, promuovere il rispetto delle regole per favorire la coesione sociale, azioni di contrasto all'illegalità come i fenomeni di radicalizzazione, il tema sensibile della parità fra uomo e donna, l'integrazione scolastica, i minori stranieri non accompagnati. Fra i soggetti ascoltati, Dusi Marcolin, presidente della Commissione Pari Opportunità, ha giudicato apprezzabile l'impianto del testo, ma ha chiesto norme specifiche di contrasto dell'abbandono scolastico e delle mutilazioni genitali femminili. Il garante per i diritti delle persone soggette a discriminazione, il professor Paolo Pittaro, ha giudicato il documento nell'insieme positivo e ha suggerito delle precisazioni. Secondo la consigliera Chiara Daggiau del PD, la legge riduce il fenomeno all'immigrazione irregolare e lo inquadra in una connotazione negativa, quando ad esempio parla di come limitare l'impatto sociale, una locuzione discriminatoria, ha detto. Furio Honsel di OpenFUG ha criticato la fretta di un provvedimento arrivato in consiglio quasi all'improvviso e a fine legislatura. Giovedì il disegno di legge torna in commissione per l'avvio dell'esame vero e proprio. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa mattina in Consiglio regionale si riunirà il comitato ristretto della terza commissione per procedere a una serie di audizioni legate ai contenuti delle proposte di legge sul sostegno ai caregiver familiari. Nel pomeriggio prenderanno il via i lavori della quinta commissione che dovrà tra l'altro esprimere un parere sul disegno di legge relativo al sistema integrato di interventi in materia di immigrazione. Occupazione in crescita secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio regionale. Nell'ultimo trimestre dello scorso anno i lavoratori sono aumentati di quasi il 3,5% e sono addirittura cresciute le assunzioni a tempo indeterminato. Un 2022 che ha stupito dal punto di vista delle performance del mercato del lavoro. Se all'inizio tra inflazione, caro bollette e guerra in Ucraina si temeva un tracollo, l'economia ha tutto sommato retto e in Friuli Venezia Giulia, al terzo trimestre dello scorso anno, gli occupati sono addirittura cresciuti di 21.000 unità. Maggiore incertezza per il 2023, ad oggi è prevista crescita zero del PIL regionale, nonostante ciò l'occupazione dovrebbe tenere. Carlo Scorvino, direttore dell'Osservatorio sul lavoro della regione Friuli Venezia Giulia. È difficile fare previsioni, io credo che la domanda di lavoro continuerà a essere elevata, quindi io credo che avremo un mercato del lavoro ancora in espansione, in cui moltissimi dovranno mettersi a lavoro e dobbiamo cercare anche di facilitare questo. Tra le maggiori criticità, la decrescita demografica. Rispetto a 10 anni fa abbiamo 30.000 under 34 in meno. Noi adesso abbiamo una fascia centrale, 40-50 anni, dove la maggior parte, non tutti, sono coppie con figli piccoli. Su questa fascia dobbiamo cercare in qualche modo di intervenire con massicce politiche di conciliazione. E anche se il sistema della formazione regionale è migliore che altrove, permane un'asimmetria tra domanda e offerta di competenze lavorative. Pompeo Tria, imprenditore di Confindustria. Siamo pensando anche molto bene come reperire manodopera che attualmente, cioè, è uno dei nostri problemi, zoppichiamo da questo punto di vista e resta un problema enorme per tutto il paese e quindi dobbiamo preoccuparci noi imprenditori a creare una manodopera che possa servire anche a quella che sarà la grande sfida del PNRR. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il dibattito sulla sanità a Pordenone, il Comitato Salute Pubblica Bene Comune e il Coordinamento Salute FVG hanno organizzato per questo pomeriggio in Biblioteca Civica un confronto aperto a tutti sul tema come curare la sanità pubblica territoriale per non mettere a rischio la nostra salute. Vi parteciperanno tra gli altri Ferdinando Agrusti, medico di base e segretario provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale, e Nicola Delli Quadri, medico chirurgo, già direttore generale delle aziende sanitarie di Pordenone e Trieste, oggi esponente di Network Salute FVG. L'appuntamento è alle 17.30. E un incontro pubblico sulla sanità anche a Trieste, organizzato dal Movimento 5 Stelle in Sala Tessitori, anche in questo caso l'inizio è alle 17.30. Il titolo è Sanità, la parola ai professionisti. È prevista la partecipazione di Alberto Peratoner, presidente regionale dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri, che parlerà del settore dell'emergenza, Matteo Picerna, presidente del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani, su medici di famiglia e continuità assistenziale, e i sindacalisti Francesca Fratianni, Romina Dazzara e Fabio Potocing, che si focalizzeranno su personale e competenze nella sanità. I soldi ci sono, ma stavolta il problema è gestirli o spenderli. I fondi sono quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i quali si attinge attraverso bandi, cui bisogna saper accedere. La Regione ha siglato con l'Associazione dei Comuni un protocollo d'intesa per formare i funzionari delle amministrazioni. I soldi del PNRR e come fare per averli. La Regione sigla un protocollo d'intesa con l'ANCI del Friuli Venezia Giulia e l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale per migliorare la capacità operativa dei comuni nell'attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Obiettivo: la formazione e la divulgazione di materiali di supporto a beneficio dei funzionari pubblici dei comuni nel risolvere i problemi relativi alla messa a terra dei bandi. Sul fronte degli investimenti, l'assessore regionale Barbara Zilli ricorda come quasi il 30% dei fondi PNRR assegnati al Friuli Venezia Giulia siano destinati ai comuni, 569 milioni di euro su un totale di circa 1 miliardo e 900 milioni, e come la Regione abbia riservato 3 milioni di euro per fronteggiare l'aumento dei costi delle materie prime e 5 milioni di euro per concedere alle amministrazioni con meno di 15.000 abitanti le anticipazioni finanziarie necessarie per appaltare i lavori. Parliamo di piccole e medie opere, riqualificazione delle scuole, attrattività dei borghi e digitalizzazione. Sul fronte del supporto degli enti locali è stata istituita una cabina di regia regionale, tra le prime in Italia, per semplificare le procedure legate ai bandi e la diffusione di una newsletter destinata al mondo delle imprese e degli enti locali. Il presidente di ANCI FVG Favot ha rilevato l'importanza del protocollo d'intesa per mettere a frutto le competenze degli esperti a servizio dei comuni. Secondo il direttore di Ifel Galeone, l'accordo sottoscritto è un caso esemplare di collaborazione interistituzionale ispirata dal principio di sussidiarietà. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una nuova scuola dotata delle più moderne soluzioni di risparmio energetico sorgerà a Udine, nell'area dell'ex caserma Osoppo. L'immobile, il cui progetto di fattibilità è stato approvato dalla giunta comunale, sarà finanziato con 5 milioni di euro di fondi del PNRR. Udine avrà una nuova scuola in via Adige, prima periferia est della città, a ridosso di via Cividale, con 4 sezioni per l'infanzia, 120 ragazzi, e 3 di asilo nido, 60 bimbi. Lo ha deciso la giunta comunale, che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un impegno finanziario di 5 milioni di euro, reso possibile dai fondi del PNRR. La nuova struttura sorgerà nell'area dell'ex caserma Osoppo. Sarà dotata delle più moderne soluzioni di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, andando a sostituire il vecchio compendio militare che sarà abbattuto. Sarà immersa nel verde con una serie di soluzioni architettoniche che metteranno i ragazzi a diretto contatto con il vero e proprio parco che la circonderà. Palazzo D'Aronco conta di concludere la fase progettuale entro luglio per dare il via poi ad un cantiere di 17 mesi. A margine della giunta è stato firmato poi tra il Comune di Udine ed Est Energy Gruppo Era un protocollo d'intesa per il supporto al pagamento delle bollette alle famiglie svantaggiate. I nominativi dei beneficiari del protocollo saranno accertati dal servizio sociale del Comune. La società si impegna, nei casi di inadempienza che rientrano nei requisiti del protocollo, a non procedere alla chiusura o riduzione della fornitura, valutando poi l'opportunità di un saldo parziale o totale. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. La polizia locale di Monfalcone ha sgomberato un appartamento di proprietà dell'ATER che era stato occupato abusivamente da una persona che è stata identificata e denunciata. In tempi brevi l'ATER provvederà a riassegnare l'alloggio. In una città ad alta intensità abitativa in cui ci sono cittadini che attendono di entrare in un alloggio ATER rispettando le regole, ha commentato la sindaca Cisint, non è tollerabile accettare i comportamenti scorretti di chi con prepotenza si appropria di beni pubblici senza averne il titolo. Sarà inaugurata alle 17 la nuova sede della Casa per l'Europa di Gemona, nei locali dell'ex biglietteria della stazione ferroviaria in Piazzale Stazione. Il trasferimento dal centro storico ai nuovi uffici consentirà all'associazione di attivare nuovi servizi, come ci ha spiegato il presidente Ivo Del Negro. Fino ad oggi la Casa per l'Europa è da più di 30 anni che è stata fondata a Gemona, è l'unica Casa per l'Europa che c'è nella nostra regione e fa tante attività, soprattutto nei confronti dei giovani, di integrazione europea per diffondere gli ideali europei. Si comincia di solito il 9 maggio per la giornata europea con i bambini delle quarte e quinte elementari e poi facciamo tanti convegni con gli istituti superiori, quindi licei, istituti tecnici e con l'università. Abbiamo fatto anche quest'anno due iniziative, una con le facoltà economiche e una con la facoltà umanistiche a Udine e siamo stati anche a Pordenone dove ormai gran parte dell'attività della facoltà di economia di Udine viene fatto a Pordenone e quindi cerchiamo in qualche modo di fare queste attività per rendere sempre più funzionale la cultura e l'attività, anche se purtroppo prima della pandemia diciamo l'Europa non godeva di buona fama, diciamo così. Però dopo la pandemia in qualche modo secondo me ha recuperato, insomma, ecco, con finanziamenti, con tutto quello che ne segue. Adesso con la nuova sede ci saranno nuove opportunità? Allora, in questa nuova sede che è nell'ex biglietteria della stazione di Gemona, in piazza Stazione 6 appunto, avremo anche un'attività ulteriore che è quella di informazione e di accoglienza assieme al Comune di Gemona, alla comunità di montagna del Gemonese e a Promoturismo FVG. Quindi cercheremo in qualche modo di dare una mano anche noi, anche perché questo è un punto centrale non solo per Gemona ma per tutto il territorio, perché qui da aprile a ottobre arrivano migliaia di biciclette e quindi daremo una buona informazione. Maria Teresa d'Austria, sovrana illuminata, al cui nome sono legati gli anni di massima prosperità per Trieste, città emporiale, ha finalmente, dicono in tanti, un monumento che la ricorda. È il tallero, uno dei simboli del suo impero. Ieri l'inaugurazione in piazza Ponte Rosso. Via il drappo rosa, il sole fa brillare il metallo ed è subito festa a Trieste. Una folla ha dato il benvenuto al nuovo monumento dedicato a Maria Teresa d'Austria, una grande moneta d'acciaio dal diametro di 3 metri incastonata in piazza Ponte Rosso. È il tallero dedicato all'imperatrice che nel 700 trasformò la città di Trieste, un simbolo scelto con una partecipatissima consultazione popolare in un concorso nel 2017 a vincere l'idea di 3 giovani creativi triestini a partire dalla designer Elena Pochkai, 32 anni. Questo tallero che abbiamo adesso in piazza non è un tallero qualsiasi, è un tallero particolare che ho qui con me. È un pezzo di storia e questo l'ha trovato mio nonno quando ha costruito la nostra casa sul Carso Triestino. Veniva messo sotto l'ultima tegola del tetto in segno di buon auspicio per il futuro. Questo è anche l'augurio per la città. Sorridenti davanti al manufatto gli altri artisti Nicola Facchini ed Eric Gerini, ex colleghi dell'Accademia delle Belle Arti. È una gran soddisfazione, è qualcosa che sto ancora metabolizzando. Entusiasta il pubblico, fatto per lo più di anziane signore, alcune persino nostalgiche hanno inneggiato Viva l'Austria. Sono andata anche a firmare per il tallero. L'aveva votato? L'avevo votato, sì. Il personaggio era importante, era una grande donna che ha fatto tanto per la città, altrimenti non saremmo quelli che siamo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Gorizia ha presentato le opzioni telematiche per conoscere la città attraverso il web e la realtà virtuale. Oltre al classico sito ci sono un'app e una chat interattiva. Si chiama Letizia, la guida virtuale di Gorizia, è una chatbot con cui dialogare per conoscere la città e le sue opzioni, non solo commerciali ma anche culturali, ricettive e di servizi. Assieme a lei, la squadra digitale messa in campo dal comune annovera anche una nuova app e un nuovo sito, Let's Go, suddiviso in luoghi, itinerari, mappe interattive, mercato e prodotti con uno spazio dedicato alle tipicità e infine una sezione news ed eventi. Il progettista digitale Silvio Staffuzza che ha realizzato la chatbot. Sito web, app, chatbot, sembrano tre canali ridondanti. In realtà noi sappiamo che gli utenti, in base alle loro preferenze, in base alla loro età, accedono ai canali che ritengono più comodi. E questo è quello che noi abbiamo voluto fare, dare delle modalità di accesso a seconda delle preferenze di ciascuno. Nello spazio Go Lovers i cittadini possono intervenire direttamente con proposte per lo sviluppo della città e il miglioramento dei servizi. Marco Muzzatti, responsabile dell'ufficio attività produttive del Comune di Gorizia. Abbiamo voluto mettere a disposizione sia dei visitatori ma anche dei cittadini goriziani una vetrina virtuale dove poter accedere a informazioni immediate. D'altra parte abbiamo anche messo a disposizione dei commercianti goriziani la app che è stata presentata oggi su cui proporre le loro attività e i loro servizi. Gorizia, Maurizio Merva, TGR Friuli Venezia Giulia. La cura dei tumori ha risvolti che vanno al di là dell'impatto con le terapie. I pazienti devono affrontare una nuova condizione mentale, confrontarsi con l'attesa dell'esito. E ora c'è uno studio che ci racconta cosa serve per migliorare questo percorso. I tempi di attesa e lo scarso supporto psicologico sono le principali criticità emerse dallo studio realizzato dal Comitato Amici di Abele Casetta e dall'Associazione Prendersi Cura di Pordenone con la Fondazione Zancan di Padova sul percorso delle persone con patologia oncologica, una pubblicazione di 100 pagine con l'introduzione del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, cui hanno collaborato 17 associazioni di volontariato del territorio. Obiettivo: migliorare i percorsi di cura offrendo il punto di vista del malato. Il questionario ha coinvolto quasi 400 persone da luglio a settembre 2022 e ha dato esiti in gran parte positivi. Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan. Il livello di giudizio positivo copre tutto l'arco delle cure. Certo, qualcosa da migliorare c'è e loro l'hanno detto molto chiaramente: i tempi di attesa e soprattutto i tempi della incertezza e della paura, e quindi il supporto psicologico che andrebbe rafforzato. Sono altrettanti incoraggiamenti ai servizi per migliorarsi. Tra i suggerimenti, valorizzare ancor più nei percorsi di cura il contributo del volontariato. Luciano Bortolus, presidente del Comitato Amici di Abele Casetta. Il volontariato deve essere guardato con più attenzione perché è una cosa straordinaria. Danno il loro tempo, accolgono le persone che hanno bisogno, che sono ammalate. È un valore aggiunto importantissimo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura sono stati consegnati al giornalista e scrittore triestino Dušan Jelinčić e al pianista goriziano Aleksandar Gagijev due dei premi intitolati a Franz Prešeren che vengono assegnati in Slovenia in occasione della giornata della cultura che si celebra oggi. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri a Lubiana. Jelinčić, 70 anni, già nostro collega della redazione giornalistica slovena, ha scritto libri ispirati alla sua esperienza di alpinista e alla storia di queste terre. Il titolo più noto è Notti stellate. Gagijev, 29 anni, nato in una famiglia di musicisti, è considerato uno dei migliori pianisti internazionali della sua generazione. Nel 2021 ha ottenuto il secondo posto al premio Chopin. Un appuntamento per la giornata della cultura slovena oggi anche a Gorizia, in abbinamento con il libro delle 18.03. Il Kulturni Dom ospiterà la prima proiezione del film documentario sulle tracce della letteratura slovena, un incontro intervista tra il poeta e traduttore triestino Miran Košuta e il giornalista goriziano Andrea Bellavite. Durante la presentazione saranno lette poesie dei principali autori sloveni, l'inizio alle 18. Questa mattina a Roma, nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera, sarà proiettato il docufilm Ricordati ricordare, portare al cuore, produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia a cura di Paolo Valerio. L'iniziativa si svolge in occasione della giornata del ricordo. Gli attori del Teatro Stabile regionale hanno lavorato nei luoghi simbolo, tracciando un dolente itinerario nella storia e nella geografia del territorio, la foiba di Basovizza, il centro raccolta profughi di Padriciano, fino al magazzino 18 nel Porto Vecchio di Trieste, contesti che aiutano a percepire il vissuto di chi dopo il conflitto lasciò le proprie terre destinate con gli accordi di pace del 47 a diventare jugoslave e affrontò un destino di povertà, incertezza e sofferenza. Tutto era nato nei primi anni 2000 dalla volontà di chiarire un equivoco frequente su quel Guidalberto Pasolini al quale è dedicata una strada di Casarsa. Da quella ricerca sulla figura e sulla morte del fratello minore di Pierpaolo Pasolini sono emerse verità sorprendenti e il libro Da Porzus a Bagno Romagno è stato ripubblicato più volte. Ce ne ha parlato l'autore Paolo Strazzolini, che ne presenterà la riedizione nella Biblioteca Ioppi di Udine alle 18. L'idea di scrivere questo volume nacque un po' per caso, perché il presidente del culturale Forum Democratico di Casarsa di allora si risentiva per il fatto che molti dei turisti venivano a Casarsa, facevano notare come ci fosse una via intitolata Guidalberto Pasolini e che tutti conoscevano invece che il Pasolini si chiamava Pierpaolo e che quindi questa intitolazione contenesse un errore. E allora, un po' per chiarire definitivamente le cose in maniera anche documentale, mi venne chiesto, visto che io mi occupavo delle vicende collegate all'eccidio di Porpus, mi venne chiesto di approfondire un po' il caso. Insomma, nacque questo primo volumetto. Che poi è stato ristampato. Sì, ha subito diverse ristampe perché è stato molto richiesto e quindi per qualche anno, diciamo, è stato distribuito. Perché è importante continuare a ricostruire la figura e la storia di Guidalberto Pasolini? Diciamo che se dovessi ricorrere a una risposta istintiva, direi perché la dignità dell'uomo va difesa sempre e comunque, al di là dei coinvolgimenti nelle vicende storiche. Ma la novità grossa è che questa volta la ricerca ha voluto andare a indagare su questioni che non erano emerse nel corso delle vicende processuali e negli studi del passato. Il risultato è stato stupefacente, perché rispetto a quanto se ne sapeva, alla fine sono cambiati sia il luogo che la data che anche la mano dell'assassino, quindi credo dei risultati di tutto riguardo. 7:45 minuti in punto, siamo agli spettacoli con la musica. Dopo un anno esatto torna al Teatro Bon di Colugna il grande pianista russo Grigori Sokolov, che aprirà proprio da qui la sua tournée italiana, consolidando il suo già straordinario rapporto con la Fondazione Bon. Sokolov vanta un repertorio vastissimo, i suoi recital spaziano dalle trascrizioni della polifonia sacra medievale a Bach, dal repertorio romantico ai grandi compositori del Novecento. Lo scorso aprile è uscita l'ultima incisione del pianista per Deutsche Grammophon, la registrazione di un concerto al Palazzo di Esterhazy in Austria, con brani di Haydn, naturalmente considerata la sede, e Schubert. Nella scaletta di questa sera, all'inizio alle 20:30, Sokolov proporrà il poco consueto abbinamento tra Henri Purcell e Mozart. Al la prima serata andata in scena ieri sera, terzo posto nella classifica provvisoria per i Coma Cose, il duo formato dalla pordenonese Francesca Mesiano e dal compagno Fausto Zanardelli. Nel loro ritorno, dopo il debutto fra i big del 2021, cantano la ripresa dopo la crisi del loro legame. «C'era una foto dove ci guardiamo», dice il testo, «gli occhi felici dopo i giorni brutti, ed ogni tanto lo dimentichiamo, ma il nostro fuoco lo hanno visto tutti». Nella graduatoria della sala stampa i Coma Cose seguono Marco Mengoni ed Elodie, e questa sera tocca alla monfalconese Shari, che sarà in gara con Egoista. Lo sport, pallanuoto, Trieste cerca una storica qualificazione alla semifinale di Eurocup affrontando gli ungheresi dello Szolnok. Si parte dal successo di misura degli alabardati in trasferta 13-12 due settimane fa. Un risultato che lascia aperte tutte le possibilità. Partiamo praticamente alla pari, ha detto l'allenatore Bettini. Dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità e contiamo sul sostegno del nostro pubblico. Lo Szolnok è terzo in classifica nel massimo campionato ungherese ed è reduce da una vittoria contro il Vasas, squadra anch'essa ai quarti di finale di Eurocup. Si gioca alla Piscina Bianchi alle 20. Tarvisio si prepara a ospitare il Lussarissimo, lo slalom parallelo sulla pista di Prampero illuminata sabato sera. Ma le iniziative si svilupperanno su 3 giorni, tra venerdì e domenica. Ai piedi della di Prampero sarà allestito lo Snow Village, una tenso struttura riscaldata che farà da quartier generale. Tra gli appuntamenti consultabili sul sito della manifestazione, venerdì ci sarà la ciaspolata al chiaro di luna, sabato mattina lo slalom gigante per giovani, senior e master, e alle 20 la partenza del Lussarissimo. Domenica la conclusione con il Lussarissimo Young gigante parallelo, riservato agli sciatori più giovani. Il Messaggero Veneto di Udine apre con i dati sull'occupazione nel 2022, più assunti e dimissioni, come cambia il lavoro, mentre la fotonotizia centrale è per la prima serata del festival, Sanremo in piedi per Mattarella, l'omaggio al presidente Morandi intona l'inno. Di spalla 3 notizie di cronaca, eseguita l'autopsia sul 34enne deceduto per shock anafilattico e poi l'albergo distrutto dall'incendio a Sauris, aperta un'inchiesta, e infine il friulano morto a Padova, si indaga per omicidio stradale. Di piede la notizia dell'approdo del friulano sui social, mentre il capocronaca di Udine è dedicato alla scuola, da una parte la protesta allo Stringer, mancano strutture attese da molti anni, pronti a manifestare. Lettera inviata a Comune e Regione da un portavoce degli studenti. Il commissario dell'EDR spiegherà la situazione mercoledì prossimo. A Pordenone la cronaca riporta la notizia del crollo di una parte del soffitto del negozio di dischi di Piazza 20 Settembre. Poi una donna intossicata dal monossido di carbonio a San Quirino, un parente l'ha salvata. E infine l'assoluzione con formula piena dell'ex sindaco di Aviano Riccardo Berto e della moglie, che erano accusati di aver nascosto 470.000 euro all'Agenzia delle Entrate. Il capocronaca è dedicato alla ciclabile dei laghetti di Rorai, in partenza alla riqualificazione, e all'intervento del PD sull'ex fiera. L'amministrazione aiuti a trovare altre sedi. Proseguiamo la rassegna stampa con il Piccolo, che dedica il titolo principale al report sull'occupazione, in aumento del 15% le dimissioni dal posto di lavoro. Dopo pandemia e smart working, in molti cercano un'occupazione migliore, più soldi o più tempo libero. L'edizione di Trieste dedica ampio spazio e una grande foto all'inaugurazione del nuovo monumento di Piazza Ponte Rosso. Il tallero di Maria Teresa si prende tutta la scena, dice il titolo delle 2 pagine in apertura di Cronaca Cittadina. Tra gli altri temi di cronaca locale, la nuova puntata sulla questione cabinovia, la variante va aggiornata e deve tornare in aula. E poi i risvolti giudiziari di un incidente stradale nel quale morì una donna urtata dal bus. Il PM chiede 9 mesi di reclusione per il conducente. Il fatto risale al 2019, accadde in via Mazzini, il semaforo per i pedoni era rosso. L'edizione di Gorizia e Monfalcone valorizza la testimonianza dalle zone terremotate della Turchia di un monfalconese di adozione, Murat Alku, pizzaiolo e ristoratore. In questi giorni era tornato nella sua terra per le ferie, adesso si trova a raccontare morte e devastazione. La cronaca di Gorizia, in apertura invece il nuovo portale di Let's Go per la promozione di commercio e turismo. L'edizione di Udine del Gazzettino richiama in prima pagina il giallo del bancario ucciso in strada, appello ai testimoni e caccia al pirata, al quale è dedicata l'apertura della cronaca. La fotonotizia centrale è per gli oltre 900.000 euro in arrivo dalla regione per una ristrutturazione del rifugio Corsi sul versante sud dello Jofwart. A Palmanova la denuncia del vice sindaco Martinez per il pronto soccorso sotto assedio, di spalla le scuole con i cavi mangiati dai topi, disinfestato lo Stringer. Mentre in alto è richiamata una notizia che arriva dal municipio del capoluogo. Il comune di Udine fa un patto per aiutare le famiglie in crisi. Di piede lo sport, per il calcio l'Udinese va in ritiro per battere il Sassuolo. Nel basket di Serie A2 Battistini della Gesteco crede nell'impresa, possiamo fare bella figura con tutti. Per il ciclismo il successo di Tommaso Cafueri al Mondiale del Fango. Nell'edizione di Pordenone le richiamo in prima pagina è dedicato all'inchiesta riaperta, in provincia in 8 sospettati di essere una bomber, 11 in tutto le persone iscritte nel registro degli indagati, fra loro anche Elvo Zornitta. Fotonotizia centrale per il PNRR, in regione ci sono da spendere quasi 2 miliardi e i comuni chiedono aiuto a Roma. Di spalla il pronto soccorso per le imprese di Confindustria Alto Adriatico contro i pirati informatici e poi la caccia, i cinghiali fanno meno paura, abbattuti quasi 5.000. Per lo sport il Pordenone, con i neroverdi che sperano di dare l'addio al Teghil di Lignano Sabbiadoro con una vittoria sul Mantova, e per il basket il giovane sacilese Andrea Gattel, protagonista in A1 con la Reyer. Il Corriere della Sera, nelle pagine del Triveneto, riporta gli sviluppi dell'inchiesta riaperta dalla Procura di Trieste sugli attentati di una bomber. Fra gli iscritti Fra gli 11 iscritti nel registro degli indagati spunta un cagliaritano, scrive il Corriere. Il 13 marzo è in calendario l'incidente probatorio sul DNA. Il nome nuovo sarebbe dunque quello di un 61enne che si trasferì a Gaiarina in provincia di Treviso. A chiamarlo in causa sarebbe una testimonianza la cui attendibilità è definita problematica. L'uomo ha subito una perquisizione. Adesso chiudiamo la rassegna stampa e segnaliamo ancora qualche appuntamento per la giornata. Va in scena a Pordenone il primo appuntamento degli eventi di anteprima della rassegna La Scena delle Donne, giunta alla 19ª edizione, diretta da Bruna Braidotti e organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri. Nella sala dell'ex convento di San Francesco alle 20.45 arriva il recital musicale Donne di Confine, di e con Bruna Braidotti, accompagnato da brani di musica classica eseguiti dal quartetto di flautiste Ensemble Euterpe degli Amici della Musica di Udine, diretto da Luisa Sello. Lo spettacolo ripercorre attraverso racconti di donne italiane e slovene la storia del confine orientale della regione Friuli Venezia Giulia e delle vicissitudini vissute dalla popolazione dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'esodo istriano. È stata promossa una raccolta di fondi a sostegno delle popolazioni terremotate di Turchia e Siria, l'iniziativa di Croce Rossa, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e UNICEF con il sostegno della RAI. Un solo numero solidale, il 45525, permetterà alle tre organizzazioni, da sempre impegnate attivamente nelle crisi internazionali, di portare un aiuto concreto e testimoniare la generosa vicinanza del nostro Paese. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 la rubrica in friulano si occuperà delle gravi conseguenze della siccità dell'estate 2022. Alle 11.20 circa andrà in onda A Volo Radente, che presenterà il progetto sanitapertutti.it, uno spazio digitale di informazione sanitaria per tutta la cittadinanza, e poi illustrerà le attività del NUE, il numero unico di emergenza, e delle buone pratiche da seguire quando ci si trova a dover chiamare il 112. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Bruno Montevecchi ed Eugenio Giuffrida, collaborato in redazione Valentina Veneruso. 7:54, 30 secondi, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali. Ci risentiamo più tardi, ma vi ricordiamo che l'informazione del TGR continua su web e social. A tutti grazie per l'ascolto e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.